tu credi? E sol desio l'onor del rogo all'onorata salma e alle ceneri illustri urna contegna. A penetrare nell'erto dell'orrore giù dal profondo spigo l'alato mio destrier ci serva al vuoto. Sì, contro Alcina alla vendetta intanto accingianci urger. Melissa puote quelle mura d'acciaio ai nostri passi aprir. Se meco sei, se la mazzone nostra a voi solice, non la temo il poter d'estigi dei.